Come ti chiami? Mi chiamo Roberta. Di età? 59 anni. Ok. Secondo te cos'è la fragilità? La fragilità per me è può essere anche un punto di forza per cambiare le cose, nel senso trasformarle da negative in positive. Essere fragili può essere un punto negativo, ma addirittura si può trasformare in positivo. Sì, ma secondo te la fragilità è una cosa brutta, una cosa... cioè, la fragilità è personale, però può essere anche una cosa positiva. L'importante è saper riconoscere quando si è fragili e avere il coraggio di superare tutte le difficoltà. La debolezza è una fragilità, cioè... La debolezza fa parte del gruppo della fragilità, dell'emotività, della insicurezza, però secondo me si può sempre essere un po' ottimisti e la fragilità diventa tutto rosa. Che allora tu il colore hai detto che la può essere rosa. Può essere rosa per te. Per me okay. Sì. Ti ritieni abbastanza fragile? Mi dispiace, però purtroppo io la fragilità la capisco, la comprendo, però io non sono fragile. Posso avere qualche fragilità nel senso emotivo, però io cerco sempre di essere ottimista, di superare tutte le difficoltà sempre. Secondo te la fragilità è un suono? La fragilità può essere un'arpa. Un suono di un'arpa che è dolce, è una fragilità che passeggera. E la fragilità è un suono, può essere anche un tamburo quando è troppo forte. Esatto. Ma cercando sempre di trovare, di tirar fuori il positivo e la forza, si superano anche tutte le fragilità. Diventano un punto anche di forza, ammetterle. Essere fragili non vuol dire... essere deboli, anzi, uno che ammette di essere fragile per me è già un suo punto di forza. Ecco, questo dico. Sì, allora secondo te la fragilità è un momento non di... Può essere anche un momento passeggero, come magari caratterialmente un ragazzo è più sensibile, più che fragile. Allora la sensibilità viene passata come fragilità. Però secondo me, passato il periodo più diciamo, della crescita, più buio. E il buio, poi sì. Dopo tu hai la forza dopo di vedere tutto bello, insomma, sì. Bellino. Dopo, cioè, secondo te la fragilità è un momento... che quando vedi una persona fragile è una persona non... Ho capito cosa vuoi dire. E io ho sempre cercato comunque nella mia vita di ascoltare tanto, ascoltare sia i ragazzi che gli anziani, tutto quello che mi capitava, perché nell'ascolto senti se è una fragilità passeggera o se è pure una fragilità proprio dettata anche da una depressione oppure da qualche malattia, però se non c'è niente di grave la fragilità fa parte di un carattere che poi si supera. Questo è vero, secondo me.